L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni, e allora che facciamo? Allora, ascoltate bene quello che è avvenuto a Terni, caro Parenzo, eh? È una cosa incredibile che ti fa capire, è vero che dobbiamo ridere, che dobbiamo scherzare in queste 2 ore e mezza, però c'è da incazzarsi per alcune cose. Tu sicuramente dirai, beh, può succedere, eccetera, eccetera, sono sicuro della tua risposta, guarda, sono certo al 100%. Poi parleremo di quello che è avvenuto sì, a Maragna. Sì, ma alza la voce, non si sente niente, alza la voce. Poi parleremo di quello che è avvenuto anche a Varallo. Varallo dov'è? Il sindaco dov'è? Il comune dove il sindaco... Sì, parleremo di quello che è avvenuto lì anche. Allora, mentre quell'altro era a fare il pagliaccio in Libia, nel suo paesino di Varallo, vedremo poi cosa succede. Vabbè, allora, succede questo qua. Un marocchino, senza documenti, espulso dall'Italia nel 2007, aveva fatto ricorso contro la decisione di respingere la sua richiesta di asilo politico in Italia. Cioè, tu vieni in Italia... Vieni in Italia con un barcone, passi la frontiera come cazzo ti pare, perché tanto è un colabrodo, eccetera, eccetera. Fai richiesta di asilo politico, te la respingono, in Italia ti consentono di fare ricorso. Cioè, per qualsiasi cosa si può fare ricorso, contro un provvedimento, cioè, tu vai e vieni qui, uno ti dice, no, guarda, non hai diritto, tu fai ricorso. Dunque, tu, in quei 30 giorni successivamente in cui tu hai diritto a fare ricorso, puoi fare quello che vuoi, poi puoi andare per il territorio nazionale. Questo qua, che cosa ha fatto? Ha commesso dei reati, è stato finalmente espulso, è tornato nel maggio scorso con un barcone da Lampedusa, è tornato, ha fatto di nuovo richiesta di asilo politico, di nuovo gliel'hanno respinta, di nuovo ricorso. Nel frattempo cosa è successo? Che l'altro giorno a Bottigliate ha ammazzato un tizio perché lo guardava male. A Bottigliate ha ammazzato un tizio, un ragazzo, perché lo guardava male. Adesso a me non me ne frega niente, marocchino, islamico, io non islamico. Dovrei difendere questo fatto? Io tu difendi sicuramente il fatto, la follia di tutto questo, la follia di tutto questo. Io penso che se uno che chiede il permesso per come rifugiato, poi commette dei reati, ma il problema è un altro, che questo andare. Qua ha fatto ricorso. Non può fare ricorso chi comunque ha commesso reati. Ma lascia perdere, non aveva commesso reati in quel momento. Questo qua ha fatto domanda di asilo politico e poi gli è stata respinta. In Italia si può fare ricorso per questa roba qui. Bisogna cambiare questa legge. Meno male che bisogna cambiare. Alfano non lo dice, però Alfano ci ricostruisce la storia. Senti il signor Alfano. Ma io mica sono Alfano. Perché questa persona è ancora sul territorio italiano? Perché ha fatto una richiesta d'asilo ed è stata respinta la richiesta di asilo. E dunque ha presentato ricorso e nel momento in cui presenta ricorso non ci può essere un provvedimento di espulsione in attesa del pronunciamento sul ricorso. Allora, intervista era di Vincenzo Miglietta per Radio 24, per il giornale di Radio 24. Allora, capisci qual è il discorso? Cioè Alfano ci dice, in Italia si può fare ricorso. Cambiate questa cosa. Cambiate questa cosa. Se uno fa domanda di asilo politico, che sono troppe le domande, chiaramente dietro, tu viene respinta, stop, finito, te ne vai, ecco, vieni portato fuori. Poi adesso la propaganda, Alfano naturalmente dice, questo deve restare in galera per tutta la vita. She goes again. lui deve adesso pagare fino in fondo per questo ignobile omicidio, e deve pagare nel momento stesso in cui entra in carcere, non uscendo più da lì. E questo è l'obiettivo di uno Stato che deve... Vabbè, questo sa benissimo Alfano che non è così, che anche gli assassini escono, non stanno tutta la vita in carcere in Italia, per cui è inutile che fa propaganda su questa cosa adesso. Cambiassero la legge in modo da impedire il ricorso quando uno presenta domanda di asilo e viene respinta. Almeno questo, no? Almeno questo. Non c'è dubbio. Poi, per carità, questo ha ammazzato uno, purtroppo è successo pure questo. Ma per due volte è arrivata, a me mi fa impazzire questa cosa, per due volte respinta, è tornata in Italia con un barcone, ha fatto richiesta di asilo politico, tutte e due volte è stata respinta, ha fatto ricorso due volte. Oh, a proposito di Berlusconi, Fede dice che Berlusconi è stato assolto, lui condannato, le Olgettino hanno avuto benefici economici, lui invece è stato licenziato. Insomma, protesta un po', Emilione. La verità, verità, verità è che ho letto che molte di queste persone hanno ricevuto dei benefici economici, un'assistenza meritata o non meritata. Il sottoscritto è stato licenziato senza un bonus di uscita. Sgarbi, Fidel Castro, 35.000 donne. Il primatista mondiale, a petto del povero Berlusconi, che siamo alla fine di qualunque lista, è Fidel Castro. No. 35.000! Ma 30 leggi? Chiamate gli esperti, il notaio, vai a vedere. No. Allora, se ne fate 500 all'anno per 70 anni, portategli dal partito. Ogni mattina una vergine, o quasi, perché non sono mai vergini fino in fondo. Talvolta minorenni. C'era una bocassina di protestare questo qua? 35.000! Fidel Castro, 35.000! Vabbè, già l'aveva detto qui da noi questa roba qui. Io però non ci credo che Fidel Castro abbia avuto 35.000 donne, francamente. È un conto matematico. Non ci credo, sì, ma non ci credo, dai, non ci credo. Allora, è con noi, lei ci crede? Michela Biancofiore, Forza Italia, buonasera, buonasera. Beh, buonasera, buonasera Giuseppe. È possibile, insomma, Michela, che abbia avuto 35.000 donne fino a Fidel Castro? Adesso, mi ma sembra. Diciamo che è la storia un po' di tutti i grandi uomini di potere, in particolar modo dei dittatori, quindi oddio, 35.000, insomma. Beh, dai, mi sembra... un bel fisico, sì. Del Castro, insomma. Sì, insomma, però non lo so, sono informazioni che ha Sgarbi, cioè, non ha fatto un calcolo, ha fatto un calcolo su 500 all'anno, adesso pure 500 sì, all'anno, francamente. Una ogni mattina sentivo. Sì, però ho capito, ma però mi sembra, insomma, che ci sia anche proprio un problema di usura, credo. Adesso non vorrei discutere con l'onorevole Biancofiore, però no, ma è impossibile per un uomo, è impossibile per un uomo arrivare. No, credo. Perché se si usura? Sì, non lo sapevo, non beh, sì, so, come dire. C'è un'usura e adesso voglio dire, francamente c'è un'usura anche del, ho capito. Vabbè, ma un'usura un'usura fisica in generale, anche del mezzo tecnico. Di tutto in generale, no, beh, cioè, l'insieme dicono che faccia bene, poi l'usura del mezzo anche tecnico, alla prostata, insomma, sì, torna nuova, però insomma, io vabbè, per certi versi insomma sono anche contenta se in qualche caso magari gli casca, ecco, però vabbè, cioè in che senso, se in qualche caso casca, dice il pisello, dice, beh, lei insomma, nel caso di, quando... in no, quali casi? No, in caso, sa, perché noi donne ci sentiamo sempre fondamentalmente tradite, quindi ecco. Ah, nel caso dei tradimenti, nel caso di tradimenti. Caso. Sì, in qualche caso dovrebbe addirittura, gli uomini dovrebbero tagliarselo, diciamo, no? Nel caso... No, ma se gli cascasse ogni tanto glielo auguriamo. Cioè, nel caso però... di tradimenti dovrebbe cascargli, dovrebbero perderlo. Lei dice che sono troppo... Però sull'usura non sapevo. Però sono troppo attaccate a questo... No, non lo so neanche io, chiedo. Cioè, ma è interessante la cosa. No, perché è interessante la teoria. Cioè, gli uomini sono troppo pisello dipendenti, questo dice lei? Qualche volta? Insomma, ma non è che lo dico io, è comprovato, è scientificamente comprovato. Scientificamente. Perché volentieri si concentrano, capito? Si concentrano anche quelli più intelligenti, anche quelli più intelligenti. Anche quelli più intelligenti hanno questo problema. Cioè, sono, in realtà hanno la satiriasi, quella che si dice di Berlusconi. No, non lo so se la satiriasi, ma diceva. Insomma, diciamo che il potere, donne e potere, l'abbiamo già detto altre volte, no? Sì. Vanno, ahimè, troppo d'accordo, solo che quando si tratta di Berlusconi, quindi di un uomo di centrodestra, ovviamente c'è un attacco ad alzo zero e ci sono tutti questi pratici a dare patenti di moralità e poi sono i primi che hanno 200 amanti sotto nella, cioè quelli nella, di sinistra, dice lei, anche i potenti di magari sinistra che indossano, capito, il lode, ne sono tutti precisi, non mi sto riferendo a Monti in particolar modo, no, ma per insomma, carità, anzi da quel punto di vista credo che sepolcri imbiancati, no? E poi però si sdoganano, ma chi è secondo me, però facciamo un nome, secondo Bill Clinton per esempio, ah, no? Vabbè, Clinton, è uno sdoganatissimo, no? È un'icona della sinistra e dei democratici, eppure uno che è uno che faceva qualsiasi oppure cosa, oppure Strauss-Kahn che è sempre di sinistra, beh, quello proprio lo stesso Kennedy, ne vogliamo parlare, quanti, no, ma in Italia, in Italia secondo lei chi è proprio quello, il sepolcro imbiancato dalla sinistra che scopa come un pazzo eppure viene elogiato da tutti? Guardi, le darò uno scoop, non faccio i nomi per ovvi motivi, ma ce ne sono almeno tre insospettabili, sì, che sono stati tutti e tre segretari, insomma così, dei partiti della sinistra, che sono proprio, dicono, e c'è da chiedersi com'è possibile, sì, in certi casi, dicono che sono dei tombeur de femme, dei tombeur de femme, cioè proprio dei seriali, killer seriali di Patonza, diciamo, come si dice. Ma questo purtroppo l'uomo appena sale al potere, beh, ecco, tre segretari, scusi, però mi viene in mente, mi vengono in mente quelli più recenti dei signori della sinistra. No, ho detto del PD, ho detto dell'area, beh, sì, di centrosinistra. Vabbè, la sinistra, diciamo, centrosinistra che c'è. Io mi vengo in mente. Comunque non se ne salva uno, guardi. Non se ne salva uno. Per esempio, Bersani, no, pure dicono che è uno che gli piacciono, poi non so se gli piacciono tantissimo le donne. È dicono, meglio non fare nomi, no, per la meglio famiglia, non fare nomi, per le carità. Le vogliamo tutelare. Per diciamo carità, così, per carità. Allora, torniamo dopo il traffico, perché Madonna oggi, vede che non parliamo di politica, è meglio qualche volta non parlare di politica. Beh, in realtà, insomma, però potremmo parlare di politica. Adesso ci arriviamo. Madonna ha detto una cosa incredibile: non vale la pena denunciare uno stupro, è troppo umiliante. Allora, c'è una frase, Parenzo, che mi ha colpito, di un intervento dell'onorevole Biancofiore, Forza Italia, l'altro giorno all'Aria che Tira, che non è stata approfondita dalla signorina Merlino, dalla signora Merlino. La frase è questa. Ora, io so che siccome la Biancofiore è una persona spontanea, diretta, sono sicura che ci rivelerà tutto di questa frase qui. La frase è questa. Il problema è un altro, che quando senatori della Repubblica spacciano le nipoti, spacciano delle escort per nipoti, il Presidente del Consiglio non lo può sapere qual è la verità. Punto. E lo fanno per ringraziarsi il Presidente Berlusconi. Lo fanno perché quando ci sono dei punti deboli, pur di arrivare vicino al potente di turno, ahimè si fa di tutto. E lei li ha visti. Onorevole Biancofiore, chi sono sti senatori? O senatore o senatrice? Perché secondo no, me. No. Si tratta di un senatore che non è più in Parlamento, e quindi per questo non farò nemmeno il nome. Senatore maschio, queste porcherie in genere le fanno i maschi, non le donne. Ma offrivano escort spacciandole per io? Pensavo a lei si riferisse a Mubarak, alla nipote di Mubarak. No, ma cioè, no, assolutamente. A parte che cioè, c'era un ex senatore che offriva. Io questa cosa la so perché questa ragazza che faceva la escort di professione era purtroppo era stata per un periodo la fidanzata di un mio amico che poi aveva scoperto appunto che faceva la escort perché c'era un via vai da casa sua di uomini di tutti i generi. E questo che fa... Dopodiché questa stessa ragazza l'ho ritrovata al fianco di questo senatore che la spacciava come sua nipote non era. E la portava a Berlusconi? E la portava a Berlusconi? L'ha portata da Berlusconi così almeno aveva attenzione. Ma che se n'è andato via questo senatore? Sì, ha cambiato credito come tanti. È andato con Alfano, che ha fatto? Ha gettato discredito, prego. Ah, è andato con Alfano, che ha fatto? No. È uscito dal Parlamento. Candidato nessuno, non so chi fine abbia fatto. Senta, oggi la Procura di Milano ha detto che Berlusconi in 4 anni per l'oggettino nel processo Rubiter, nella vicenda Rubiter, cioè sulla falsa testimonianza, comunque ha speso per queste ragazze 2 milioni, più di 2 milioni di euro in 4 anni. Lo dicono, l'hanno accertato attraverso i conti bancari, attraverso le inchieste, certo, quello che sanno. Ma intanto questo riguarda il Rubiter e non mi pare che sia ancora andato a processo e quindi è tutto da vedersi. Dopodiché anche qualcuno anche dice Berlusconi può spendere i soldi come vuole. A parte appunto che peraltro insomma i soldi sono i suoi, se li ha guadagnati con il lavoro, certo io li spenderei in un'altra maniera, ma insomma, cioè non li spenderebbe ribadisco, in donne lei, non li spenderebbe in donne. Proprio no, direi, neanche in uomini. Cioè a lei non dà un po' fastidio il fatto che Berlusconi abbia pagato per esempio per un periodo, questo è accertato, e abbia pagato 2500 euro di praticamente di stipendio a questo oggettino, non le dà un po' fastidio? Guardi, non è che a me, cioè non risulta, a me personalmente non mi risulta. No, ma risulta, ormai è accertato, lui pure l'ha detto. Ma ha detto, non è accertato niente, non c'è stato ancora il processo. No, ma è accertato, lo ha detto per difendere le ragazze, lo ha detto io, siccome queste ragazze erano state sputtanate. Non ha detto coppi come qualcuno vuole sostenere. Come no, che c'era un sistema prostitutivo, come no? Ha detto che ammetto l'esistenza della prostituzione. Il sistema prostitutivo vuol dire che alcune ragazze andavano lì con l'intento di Ma non è detto che la persona in questione sapesse che erano prostitute, è per quello che io ho raccontato il fatto del senatore, perché chi conosce l'indole del presidente Berlusconi dovrebbe sapere, e lo sappiamo, almeno noi lo sappiamo, ma in generale, che l'uomo è un conquistatore, a lui di pagare una donna proprio non gli passa neanche per la testa. Lui, cioè, è impossibile generoso. Che abbia pagato donne, vabbè, ho capito, però i secondo soldi... me io ritengo. Beh, li faceva pagare a Tarantini in alcuni casi. Berlusconi, ma figuriamoci, Tarantini le pagava di nascosto, semmai, sempre spacciandole, cioè, come sua amica. Per come lei conosce Berlusconi, è impossibile che abbia pagato una donna. Assolutamente, diciamo. Per un semplice motivo, che gli abbia fatto regali. Ma guarda, non c'è niente di male. Anche in termini di denaro, io sono assolutamente. Eh beh, i regali significa pagarle, che non è che. Fatto, le, sì, dei gioielletti, eccetera. Beh, ma come pagarle? Regalati anche a noi, e non ci siamo accompagnate con lui, cioè anche a noi ci regala, ogni volta che andiamo là, ci regala un foulard, ci regalato un gioiello. In passato, quando eravamo più benestanti. Senta, qualcuno, nonostante la soluzione di Berlusconi, qualcuno, nonostante, ma cioè, no, qualcuno, diverse persone, nonostante la soluzione, continua a dire che in realtà è colpevole, eccetera, eccetera. I vescovi, per esempio, dicono che una cosa è la soluzione, una cosa è la morale. I signori vescovi. Guardi, io sono cattolica e anche professante. Ci ho detto, io credo che anche da quella parte non ci siano persone che possono dare patenti di moralità. Punto. Cioè, i vescovi stiano zitti perché hanno i pedofili in casa, dice lei. No, insomma, dico io, questo l'ha detto oggi un noto direttore di un giornale, sostanzialmente condivido, anche se sicuramente hanno cercato di fare piazza pulita. E però dice devono stare, non possono dare lezioni a Berlusconi. In questo paese, come ha detto giustamente il professor Toppi, queste cose eventualmente Berlusconi le deve confessare nel confessionale, scusate la ridondanza di parole, ma certo non sono patenti di moralità, e ribadisco che nessuno le può dare, e ribadisco un concetto, mi piacerebbe che fossero state date su grandi politici, ma poeti, i PM eccetera, devono chiedere scusa, secondo lei? I PM assolutamente sì, ma devono, non a Berlusconi, ma non a Berlusconi, a chi? Lo devono chiedere al paese, lo devono chiedere agli italiani, cioè la Boccassini deve chiedere scusa. Quella inchiesta basata assolutamente sul nulla, dicevo l'altro giorno, visto che avete ricordato la trasmissione della mia amica Mirta Merlino, che ogni sera a Milano, ogni sera ci sono un sacco di, in casa e fuori casa, 2500 euro. Vabbè, sì, questo l'abbiamo come sentito. Mai sono andati a Senta, Lerner dice che Berlusconi resta un puttaniere. La verità delle cose non viene a galla. No, ma adesso non abbiamo tempo, che c'è la pubblicità. Perseguite queste ragazze perché ovviamente erano accompagnate nella casa del premier. Allora, ed è scandaloso. Perché non ti iscrivi al fronte di emancipazione del maschio dal cazzo? Fronte di emancipazione del maschio dal cazzo, per poter accedere a dei livelli superiori cerebrali. E intanto, Parenzo, mentre in Sudafrica alcuni medici annunciano che è stato realizzato il primo trapianto di pene al mondo, chiaro? Chiaro a tutti? Il senatore della Repubblica Antonio Razzi dice che Renzi è un dittatore peggio di quello coreano. Arriva Razzi, Lei era tanto contento, mi ricordo, di stare con Renzi, adesso è contento di essere tornato all'opposizione? Sembra quasi una dittatura, perciò non mi parlate più della Corea del Nord, perché qui siamo quasi alla stessa... Addirittura? Alla stessa... Sì, ma però io l'ho intervistata 2 mesi fa e mi diceva che bello, io sono contento di stare con Renzi. Vende bene il fumo, fa credere tutto agli italiani, però e non poi è però così. Per un anno sto fumo... Va bene, ma... come... Poi vi siete come succede nelle buone famiglie, per andare avanti devi abbozzare... ma diciamo abbozzare, mettere giù tutti i rospi. Oh, ma sto Bertazzoni, quello di servizio pubblico, si piglia un sacco di insulti, prima quel Gian Lorenzo che gli ha dato del comunista di merda, se l'è presa pure con Santoro e Travaglio, adesso anche Bianconi, il nostro amico Bianconi di Forza Italia. Senti Onorevole Bianconi, ci aiuta a capire che succede un po' dentro Forza Italia? No, dai, io a lei non gli parlo. Ma dai, ma ha parlato con i colleghi Ma adesso. Con te ci parlo. Ma perché? Perché volevamo, no? Volevamo sapere solo questo prima sia le riforme, poi no. Non si capisce molto. Lei è sempre stato per il no, però il partito ha cambiato linea, soltanto questo. E cazzi del partito, mica miei. Ma è il suo partito, quindi cazzi anche suoi. Oh, io faccio l'opposizione. Con questa visione così è piuttosto stalinista. Lei ce l'ha un po' la faccia stalinista. Addirittura. Faccia da stalinista. Mettiamo un po' di Radio Padania, perché qualcuno comincia a scatenarsi su Tosi da Radio Padania, eh? Beh, immaginavo che Beh, ti posso passare un po' di ospiti, perché sono qui a Trieste. Non me ne frega niente. Al convegno dei giovani imprenditori. Non me ne frega un cazzo. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti. Ti ricordi un gesto Rocchetta? Che fine ha fatto? Certo. Che fai adesso l'indipendentista, quella è la fine che deve fare lui, perché lui è un falso. Salvini ha fatto di tutto per cercare di evitare, adesso sta su tutti i telegiornali, c'è l'uso, quella faccia di bronzo, però il primo a pagare sarà lui, perché prima o poi gli stronzi vengono a galla. Fai vedere le tue braccia posse. Quando un signore nel pieno della lotta si estranea e per 30 denari tradisce la Lega, ma può fare quello che vuole, a noi non ci interessa, che vada a cagare. Beh, questo passa a Radio Padania, amici miei, subito proni. Beh, ma è normale. Gli amici di Radio Padania, ma abbiamo con noi ancora Michela Biancofiore, deputata di Forza Italia. Voglio subito dire a Michela Biancofiore che ci sono alcuni che, nonostante la soluzione di Berlusconi, dicono che Berlusconi è comunque colpevole, perché la colpa è della Severino che ha cambiato la legge, e in realtà resta un puttaniere. Per esempio, Gad Lerner usa proprio questa parola: Berlusconi era e puttaniere resta. Lei che dice al signor Gad Lerner? Io che vorrei un po' che spiassero magari dal buco della serratura di casa sua, questo senza voler ipotizzare nulla, ma insomma credo ma che chi non ha... Non è stato Presidente del Consiglio, diciamo. Prego? No, ma tanto Parenzo stato... oggi non si sente, per cui è inutile. Non è stato Presidente del Consiglio. Ma il Presidente del Consiglio in casa sua è un uomo normale, in casa sua fa quello che gli pare. Certo, io non è che lo giustifico, voglio dire... Non è... io... Cos'è che non giustifica? Avrei preferito che non lo facesse se lo ha fatto. Questo non significa però che ci sia, ribadisco, tutta questa ipocrisia da gente che non c'è un uomo in Italia, ritengo, che non sia, come dire, non si sia accompagnato con signorine, almeno per l'iniziazione, come andava di moda. Beh, adesso addirittura tutti sono andati a Mignotta, dai, lei dice. Su, per favore, perché prolificano in tutta Italia, in tutto il mondo? E che con chi vanno? Con noi o vanno con gli uomini? Su. Beh, io solo due, facciamola finita, che hanno il seggiolone dietro e vanno a prostitute, ma quante ne abbiamo viste? Beh, anche a Tranzo vanno, devo dire la verità. Vabbè, non iniziamo con la storia dei trans, no, dei gay, eccetera, per carità, eccetera. No. Prostituzione è, anche quella maschile e femminile è prostituzione. Sì, per carità. Anche quella di uomini che si prostituiscono. Sì. Ma però lei non può dire che ogni uomo è andato a puttane in Italia. Cioè, senta, io lo sa che non amo l'ipocrisia. Io scommetto che quasi tutti gli uomini in Italia hanno avuto, come, sì, almeno per l'iniziazione, diciamo così, ma perché va querelo, di moda, ma per l'iniziazione adesso lei è un'altra epoca, non c'è più bisogno così. Per l'iniziazione di andare io, a puttana, ma non mi risulta, c'è tanta timidezza in giro e in genere le signorine erano usate anche per questo motivo qua, quindi quello che proprio mi fa che mi è l'ipocrisia, risulta, è l'ipocrisia. Esatto, posto che a me questo modus vivendi ovviamente non mi appartiene, ma a prescindere da questo, che va comunque accertato nei confronti del Presidente Berlusconi, perché io mi fido ancora. Beh, Coppi ha detto che c'era la prostituzione. Ha detto che alcune ragazze andavano lì con l'intento di prostituirsi. No, ha detto che c'era prostituzione, lo ammetto. Comunque lasciamo perdere, vabbè. Andate a vedere anche l'intervista sul Corriere della Sera, ha detto un'altra cosa, che sicuramente c'erano delle ragazze che andavano lì con l'intento di prostituirsi. Ma lei come le definisce queste ragazze, che sono state definite oggettine, alcune dicono prostitute, eccetera, eccetera. Lei come le definisce queste qua? Qualcuno dice che sono... Io non amo dare definizione, non sta a me il giudizio morale. Beh, però insomma giravano intorno a Berlusconi per ottenere favori e soldi, dai, su. Ma guardi, ma io voglio vedere cioè, le ragazze, purtroppo, dove c'è potere, dove ci sta economia, dove ci sono soldi, dove ci sta, tra l'altro, si buttano a pesce, dice, si buttano a pesce. cresce. Televisione, ma io l'ho già detto questo, ve lo sapete benissimo, sono stata attaccata in tutti i modi, ma è la verità, ma lo fanno anche gli uomini oggi. Cioè, molte donne, la maggior parte delle donne cerca... anche gli uomini, cioè molte capito? Donne secondo lei ormai si buttano a pesce sul ma sul... secondo lei che ne so, boh, è lei che è stata a casa di Berlusconi, io non ci sono mai andato a casa di Berlusconi, donne. Io ci sono andata e vi posso assicurare che non ho mai visto scene di altro genere, poi probabilmente non sono stata invitata, però ecco, e ne sono anche felice francamente. Ma io non ho mai visto un altro genere. Senta, però le voglio fare un'altra domanda, prima a parte che c'è quando è arrivata Francesca, c'è proprio per fortuna una piazza un blocco a 360 gradi. Ha avuto questo merito, diciamo, no, signora Pascale? Ma essendo una donna molto gelosa, giustamente ha bloccato il via vai a bloccare tutte quelle che si avvicinavano a lui. Non era Berlusconi che andava a cercarle, ha sentito le intercettazioni, c'è la gente che avrebbe pagato lei per andare con Berlusconi. Ma come Berlusconi non andava a cercare? Ma ha sentito le intercettazioni col signor Tarantini? Dai, su, era Berlusconi che le cercava o era Tarantini che gliele portava? Ma è uguale, dai, su, non è uguale. Si arrapavano entrambi all'idea di avere un sacco di donne intorno, ma è normale. Ma non c'è nulla di strano. Ma scusate, mica una malattia, voglio dire, il fatto che uno gli piacciono le donne. No, cioè, non è una malattia ancora, fino a prova contraria. A trovarne, dice lei, a trovarne addirittura. Ma no, guardi, io non ribadisco, non do patenti di moralità in nessun genere. Senta, ma una domanda politica, io voglio ognuno capire fa quello che vuole una, con la sua una cosa definitiva, una cosa definitiva da lei su Verdini. Io dico, una cosa definitiva, lasciamo per tutte le polemiche, eccetera, eccetera. Verdini, secondo lei, ha rovinato Forza Italia? Definitiva è difficile da dirsi, quasi non da definitiva. Solo, ma sicuramente gli ha dato una mano. Resta il fatto che Verdini è uno straordinario organizzatore e un po' meno uno straordinario politico. Ecco, diciamo così, non sa trattare decisamente con le persone, ecco. Però ha la sua visione che è assolutamente accentratrice. Detto questo, non è che io ha rovinato il partito o no? Ha rovinato il partito o no? Ve l'ho già detto, sì. Per certi versi assolutamente sì, ma non da solo. Tutti i fuoriusciti che sono andati in NCD sono colpevoli esattamente quanto lui. Sono colpevoli. Senta, Madonna dice che non vale la pena denunciare. Tutti, fatemi finire una frase. Hanno tradito tutti quelli che hanno avuto ruolo di vertice, quindi di decisione dal 2008 in poi, che hanno perso 9 milioni di voti e che adesso fanno i sepolcri bancari. Ma Madonna che dice solo Verdini. No, ma certo, è Madonna che dice che non bisogna denunciare lo stupro, lei come pensa? Ma sono senza parole, cioè nel senso, io ero una fan di Madonna quando ero fanciullina, adolescente, che è troppo umiliante di Madonna, però francamente che lei usi qualsiasi strumento per creare marketing intorno a sé non è una novità, però insomma ecco, a me sembra umiliante che una donna dica una cosa da donna, ecco. Va bene, grazie, grazie, a presto. Previsi. Arrivederci, grazie, a lei, grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora ragazzi, bisogna fare qui un forza villaggio, Paolo, villaggio. Allora, ha avuto un malore Paolo Villaggio? Sì, è vero, è ricoverato. Perché alle volte escono queste notizie, Paolo Villaggio è morto. Invece... Però è ricoverato al Gemelli, mia, situazione povera. Sotto controllo, noi lo vogliamo ricordare in questo modo. Beh, ricordare, vivo, scusa. No, ma vogliamo ricordare, vogliamo dargli, sì, certo, non è che è morto, per carità. Vogliamo ricordare Villaggio che è vivo e vegeto, ma hai fatto bene a dirlo. È vivo e vegeto, però noi ce lo ricordiamo in grandissima forma sbagliante, Radio Belva. Allora ti spiego. Sì, che poi per carità ognuno può pensarla come vuole, per carità, se Lerner è convinto che Berlusconi era e puttaniere resta, se vuole dare questa patente morale a Berlusconi come se essere puttaniere significa, no, un marchio in telefono, e puttane gli piacciono le donne, gli piace scopare con tante donne, avere intorno un'area, ma allora che cazzo vuoi? Cioè, ma qual è il problema? Vescovi, non è che ha detto una cosa tanto diversa, i vescovi non hanno detto che è un puttaniere, hanno parlato di morale, ma i vescovi sbagliano a parlare di morale. Usano il perché in mezzo a loro ci sono una marea di pedofili, perché per cui non è questo il punto. Usano un altro linguaggio. No, vabbè, ma infatti me la piglio pure con i vescovi, non mi interessa. A me chiunque dia queste patenti di moralità. Poi ho detto mille volte che Berlusconi è colpevole, come dire, di un comportamento quantomeno incauto. Ecco, diciamo, usiamo un termine di questo tipo. Dopodiché, la cosa incredibile di Lerner è che non si limita a dire un puttaniere, ognuno pensa quello che vuole. Dice, vabbè, mendace con la favola della nipote di Mubarak e la pioggia di denaro finalizzato ad accomodare le testimonianze. Ora, sarà anche così che questa pioggia di denaro... Ma lui che è così attento alla legalità, fai finire il processo, no? Di terzo grado, non di primo, di terzo grado, e poi dirai che ha pure pagato le donne, le ragazze per stare zitte oppure per fare falsa testimonianza. Ma fai finire il processo, fallo finire. Vabbè. Oh, Marco da Lecce, vai Marco. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Volevo, io intervengo per precisare alcune cose che magari... Vai, dimmi. Allora, innanzitutto sulle ragazze, sulle migliaia di ragazze di Berlusconi, ma non è quello, non è mai stato quello il problema, potevano essere pure 50.000 come Sì. Del Castro. Non è, 35.000 cioè, dice il ma non era imputato per questo, quindi è inutile girare... Sì, era imputato per due cose che si sono poi rivelate. Che, esattamente, quindi potevano essere anche 100.000, il problema non era quello, il problema era una minorenne, Che non si è potuto accertare che lui sapesse... Che era minorenne, va benissimo. Esatto, quindi il problema è quello lì, poi, quindi dire Fidel Castro 35.000 non vuol dire niente, solo buttare fumo negli occhi. Perché non è mai vuol dire che altri leader politici sono sempre circondati, sono sempre circondati di donne, e nessuno ha messo, questo ha detto Sgarbi, nessuno, non c'era una Boccassini a Cuba, questo ha detto, no, perché per cercare un reato, per cercare un reato. Ma cosa c'entra davvero? Ragazzi, però non cerchiamo di fare i cretini, cioè di fare gli stupidi, non è che la Boccassini è l'emblema della giustizia e Berlusconi l'emblema del male. No, la Boccassini si voleva inchiappettare Berlusconi perché gli sta sul cazzo, questo ma è il punto. E infatti c'era. Beh, quello è un altro discorso, quello sulla concussione, è un altro discorso. Sono cose che non vanno sottovalutate. Allora, lui, guarda, oggi mi sono informato bene su questa cosa qua. Se fosse rimasta quella del primo grado, lui sarebbe ora condannato. Questo lo dici tu. Questo qua non si può avere la prova di questo. No, non si può avere la prova di questo qua. Cioè, la questione è molto semplice. No, non si può avere la prova. No, ma non è comodo, a me non mi interessa. Guarda, a me se condannano Berlusconi non me ne viene nulla a me non me ne frega niente. Non sono dipendente di Berlusconi, non me ne frega niente della sorte di Berlusconi. Per fortuna il mio reddito non dipende interamente da Berlusconi, dunque non ho problemi da questo punto di vista, non ho nessun problema, nessuno. Ma si puntualizzi che lui in primo grado è stato condannato, ma che vuol dire? Ma ragazzi, ma è possibile che in Italia non si metta una riga legge, definitiva in Italia? La legge è allora, ti rispondo su questo, la legge è stata cambiata, certo è stata cambiata, e la concussione è un aspetto diverso rispetto alla partita in corso, durante la partita però intendiamoci, la Severino allora da una parte ha impedito a Berlusconi di candidarsi con la legge Severino, da una parte, primo, e dunque diciamo dovrebbe essere la più odiata da Berlusconi, e dall'altra però l'ha inchiappettato con la storia l'ha favorito con la storia del cambiamento della legge. Cioè, allora intendiamoci bene, sa Severino che ha fatto, cioè è stato un danno o un vantaggio per Berlusconi? No, spiegami. Vabbè. No, spiegami, sa Severino. Nettamente un vantaggio. Un vantaggio, bene. Berlusconi non la pensa così. Quale preveriva? Sette anni che comunque sarebbe poi comunque stato interdetto dai pubblici uffici. Perché ragazzi, il fatto che Berlusconi sarebbe stato condannato a legge Severino, diciamo con la precedente legge Severino, non è provabile da nessuno. Cioè non si può provare. Ma poi continuando con le che sia cambiata la legge, hai ragione tu, la legge è cambiata, certamente la concussione è una concussione a suo favore, è una concussione diversa. No, perché a volte si dice quelli del primo grado erano applicati dall'odio. No, avevano una legge diversa e l'hanno applicata. Va bene, d'accordo. Armando Palermo, vai Armando. Oh, ciao, finalmente. Vai, dimmi caro, dimmi. Praticamente la Biancofiore sarebbe capace che se vede Berlusconi dare un pugno a qualcuno, lei direbbe che è qualcuno che si è lanciato contro il pugno di Berlusconi. Detto questo, non era la cosa per cui avevo chiamato. Visto che la Cassazione si è assunta la responsabilità di dire che qualcuno può non sapere se una ragazzina è maggiorenne o minorenne, qualcuno in futuro si potrà scopare una quattordicenne e si salverà dicendo che lui non sapeva che era minorenne. Guarda che già succede, diverse persone sostengono di non sapere, compreso il marito di una famosa deputata, dice io non sapevo che quelle là erano minorenni, per esempio, no? Cioè, molte persone, io non lo so se Berlusconi sapeva o non sapeva, alcuni indizi portano a ritenere che Berlusconi sapeva che era minorenne, alcuni indizi portano a non sapere, a me appare già assurdo in sé, politicamente assurdo in sé che Berlusconi frequenti Rubi Rubacuori, per me è già questa la follia politica, che Berlusconi porti a casa sua Rubi Rubacuori, punto e basta. Presidente del Consiglio ospita a casa sua la signorina Rubi Rubacuori. Già questo è un errore clamoroso, che questo si sia trasformato in un'ipotesi di reato, per me è un'altra follia, punto. Giuseppe, posso dire una cosa? praticamente anche lui non sapeva che Mangano era un mafioso. Vabbè, ma ragazzi, cioè, adesso questo che c'entra, su Sicilia, vabbè, non c'entra nulla. Però c'è da dire solo una cosa, che questa legge sui minorenni, la Cassazione l'ha resa nulla, perché anche una di 10 anni potranno dire, ma chi cazzo mi diceva a me che era... Vabbè, ma questo, dai, c'è una differenza tra 10 anni e 17, Rubi Ruguari sembra che ce n'abbia 25. Sì, lo so, hai ragione. Dai, Alessio però Milano, ciao Armando, cosa. Ho capito, ciao Armando, ciao, Alessio Milano, vai. Oh Parenzo, allora, volevo chiederti gentilmente di mollarci con la tua ideologia del razzismo, ok? Perché no, ma nessuna ideologia. Sì, è una cavolo di ideologia, perché non puoi. Sì, cioè è un'ideologia, perché il razzismo di fatto non esiste, ok? Fai conto che non parliamo arriva di razzismo. Arriva lui alle 20, certo, alle 19:50. Fammi parlare. E dice la stronzata delle 19:41. Sì, ma che volevi dire? Alessio, che volevi dire? Fammi parlare, ti dico che... Meno male che l'hai svegliato, perché questo stasera dorme. Vai, Alessio, vai. Grazie. Non è una questione di razzismo. Sì. È una questione di Italia. Noi in Italia abbiamo già i nostri cazzi. Perché anche noi siamo ladri, assassini. C'abbiamo la mafia, c'abbiamo la camorra, c'abbiamo l'andrangheta, abbiamo Roma Capitale, c'abbiamo le carceri piene... Fammi finire. Cioè, a che ti riferisci, Alessio? A cosa ti riferisci? Alla vicenda di quello di Terni? Ai Rom. Sì, ai Rom in generale. Noi oggi non possiamo permetterci di ospitare questa gente. Perché ma non c'è nulla da ospitare, sono già qui, salame. Ma no, invece sì, dobbiamo prima risolvere i nostri problemi, che abbiamo fin sopra i capelli, perché non siamo in grado di risolvere ma niente i nostri. Sono abbiamo un nostro le carcere problema, piene. Sono qua. Ma io non so, non li vogliamo qua, non perché non siamo razzisti, ma perché abbiamo già i nostri cazzi. No, ma lei si rende conto di quello che ha detto? Cioè, siccome la logica ha i suoi diritti, la logica comunque non me ne frega niente di quello che sta dicendo. Cioè la politica italiana deve tutelare il cittadino italiano, Alessio. Sono cittadini italiani, salame, mamma mia. Ma non sono cittadini italiani, Beh, spesso i Rom sono italiani. Cittadini italiani. Però, salame d'un salame. Basta. Vabbè, Alessio, ma cosa me ne frega? Ma tu fino a 10 anni fa quante... Senti, fino a 10 anni fa, quante probabilità avevi che ti entrassero in casa a rubare? Dimmi, quante? Cioè, un ladro, visto che un tu ladro, parli, nocciola, nocciola un po' di numeri, visto che fai visto che vuoi essere un giornalista, snocciola un po' di numeri, informati. 10 anni fa, quante erano le probabilità? Ho studiato le serali, ma io veramente mi... No, io non ho studiato le serali, io vabbè, faccio Alessio, allora, come Alessio, cavolo ragiono? Alessio, segnalato che stanno per espellere dalla Lega. Sì. Adesso voglio... Visto che parlate di Tosi e Lega, chiamate Polledri che stasera... Ma Polledri era quello dei gay che venne da noi a dire la psicanalista, la psichiatra. Vabbè, allora che non però, ho capito, lo stai dicendo tu, dillo allora. Chiamate Polledri che stasera sarà espulso dal Carroccio a Piacenza, una piccola notizia che non sa lo stesso Polledri. Cioè, ma perché sarà espulso, non ho capito? E non lo so, ma adesso vanno... Vabbè, voi lo chiamiamo. Ho capito, vabbè, adesso vedremo, dai. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Ragazzi, per non dimenticare, perché qui ci sono delle persone che prendono per il culo tutti, e si vantano di prendere per il culo, le persone. Però a noi non ci prendono per il culo perché li infinocchiamo. Allora, c'è il caso di un sindaco, il sindaco di Agropoli, abbiamo trasmesso un'intervista nei giorni scorsi, ma qualcuno forse se l'è dimenticata. Si chiama Alfieri, è del Partito Democratico, dunque il partito che dovrebbe tenere alle forme, la legalità, eccetera, eccetera. Uno non si aspetta certe parole da questo signor sindaco Alfieri, il quale non si potrebbe candidare in Campania perché la legge stabilita dalla Regione Campania gli impedisce di candidarsi perché è un comune, è a capo di un comune oltre i 5.000 abitanti, il quale però se ne fotte, dice che il popolo gli chiede di candidarsi, le persone vogliono che stia in regione, e lui che fa? Con una furbata si fa multare in modo da decadere in modo da decadere da sindaco, e dunque una volta decaduto può tranquillamente candidarsi al Fieri. Cos'è questa storia che lei si fa multare per decadere e poi candidarsi alla regione? La regione Campania, sì, ha approvato una legge che impone le dimissioni al sindaco che si vuole candidare. La candidatura del sindaco poi fa arrivare il commissario prefettizio per oltre un anno al comune. D'accordo, però scusi, c'è una legge che prevede che chi è a sindaco di un comune sopra i 5.000 abitanti non si può candidare, punto e basta. Vabbè, c'è anche una legge che se il sindaco viene dichiarato incompatibile non arriva il commissario, la giunta e il consiglio restano in casa. Vabbè, è una furbata. È un escamotage per evitare furbata. Il commissariamento all'ente. Cioè, resta e dice sindaco. È una furbata, la possiamo chiamare anche furbata. Una paraculata, dice apertamente Alfieri, che se ne fotte, dice: io ho fregato quelli della regione Campania che mi impedivano di candidarmi, ma c'è una legge, non ti puoi candidare. Ma la cosa assurda è che ti fai multare per opporti al tuo comune, dunque per decadere, cioè la furbizia all'italiana al massimo. Ma la multa alla fine lei si oppone sul serio? Fin quando non mi dichiarano incompatibile e poi la pago. Beh, lei si oppone e poi un trucco continua. È una cosa pazzesca. Lei si oppone e poi la paga. Cioè è più un trucco. È una presa in giro continua. Certo, li dobbiamo mettere certo. Più i fondelli a questi consiglieri regionali che hanno fatto sta lì. Ah. Vabbè. Fino in punto. Viva l'Italia! Ma paraculo, amico mio! Viva l'Italia! Cioè, io voglio dire una parola al signor Renzi, va bene tutto, questo qua è anche un numero uno, perché uno che riesce a trovare questo tipo di inganno deve pensarci pure la notte, no? Ma di qualche parola, è il sindaco del tuo partito, Diafragola, chiamalo e digli: non mi rompere i coglioni, non ti candidare, no? Signor, cioè, qualche cosa non bisogna fare. Penso che si occupi di queste vicende. Ma ho capito, ma questo si vuole candidare alla regione Campania al sud, che significa come non si occupa di queste vicende? Latino, pretor de minimis non cura. Vabbè, senti ancora. Ma pure De Luca comunque fa la stessa cosa, si candida in realtà no, e poi sarà sospeso probabilmente. Tutto invalidato. Ma non lo sappiamo. Ma è tutto degradato. Ma le pare normale a lei che uno si candida sapendo che già con la legge Severino è condannato in primo grado e non ma può... Ma perché lei pensa che è giusto che c'è un principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado e poi c'è una legge dello Stato... Ho capito, ma l'avete approvata... una persona che è condannata in primo grado per abuso di ufficio... Per scusi Alfieri, questo è un discorso un po' berlusconiano, lei è del Partito Democratico... Non significa niente, ci sono questioni di valore e di principio che prescindono i partiti. E poi la legge l'avete fatta voi del PD, l'avete approvata anche a furor di popolo. Bene, andiamo a dove andiamo? Antonio Varese, vai. Antonio. Salve, buonasera. Vai, dimmi. Ho sentito prima la Biancofiore, mi sono alzato, mi sono girato molti coglioni. Perché sì, ma lei dice che nessuno c'ha la patente per poter... No, ha detto anche che ognuno, tutti gli uomini italiani sono andati a puttane. Tutti, io devo dire che ci sono andato a puttane. Io non sono andato a puttane, non ci sono mai andato e non penso di ci andrò ormai. Dice un'altra cosa che non si usava più, cioè tutti gli uomini hanno avuto la loro iniziazione con una zoccola, con una prostituta. Ma di che stiamo parlando? La Biancofiore non so dove. Ma no, ha parlato di iniziazione. Sì, iniziazione. Ma sì, quale iniziazione? Ma lei pensava agli anni 50. Uno negli anni 50 andava nelle case chiuse, scopava per la prima volta, eccetera. Ma ormai non c'è più bisogno dell'iniziazione. Cioè, non è che uno per andare la prima volta con una donna va a puttane. Questo è solo nel mondo fatato dell'amica Biancofiore. Purtroppo, però, è una parlamentare, quindi dovrebbe. Vabbè, comunque, a parte questo, io volevo dirle alla signora che se nessuno c'ha la patente per poter giudicare, la patente di moralità per poter giudicare quello che ha fatto Berlusconi, non ce l'hanno quelli di sinistra, non ce l'hanno i preti. Io ce l'ho, io sono un lavoratore, uno che lavora la vita, io c'ho e pago le tasse. E allora? E quindi cosa ti sta sulle palle? Che Berlusconi sia circondato di signorine che pagavano lautamente? Non è un cazzo che sia circondato. E allora qual è il punto? A me mi fa incazzare il punto che questa Italia andava sempre più giù. E quando questa Italia andava più giù, c'era il nostro Presidente del Consiglio che invece di fare qualcosa, le liberalizzazioni, la sburocratizzazione di questo cazzo pensava alle mignotte. Che cosa pensava? Pensava alle mignotte. E se permetti, questa è una cosa gravissima. Però Berlusconi per questa questo è stato una cosa gravissima. No, è una stronza come la Biancofiore, scusi, perché adesso non gliela faccio più. Va bene, tanto qui si non può dire tutto. Pretendere, non può dire quello che dice. Non lo può più dire nessuno, questo governo, questi politici che sono stati quasi per 20 anni, ma io parlo di sinistra e destra, non ce la facciamo più. Basta, ma che cos'è che ti sta, io non ho capito, che cos'è che proprio ti fa venire il sangue al cervello a te? Cioè, ti fa venire il sangue al cervello, il fatto che ci sia qualcuno che difende il modo di vita di Berlusconi, il modo, cioè il fatto di circondarsi di queste donne, cioè mentre il paese affogava, mentre il paese andava sempre più giù, ho capito, ma uno se c'ha i soldi potrà spenderli come cazzo vuole, ma, ci mancherebbe che però non faccia il Presidente del Consiglio perché non gliel'ha ordinato. Questo il pure, insomma, c'è un non gliel'ha ordinato il medico, facesse un'altra cosa. Ho capito, cosa. Però senti, però, posso dirti qual è la risposta? Adesso non so se è vero quello che dice Sgarbi, che Fidel Castro ha avuto 35.000 donne in non so quanti anni. Piacere, ma non sanno più che cazzo sai dire. Che ho fatto un calcolo, Parenzo, stasera dorme, ho fatto un calcolo. No, non dormo proprio per niente, ma non c'entra assolutamente niente la cosa di Fidel Castro. No, però Fidel Castro, è vero, io ho fatto un calcolo. Sgarbi dice che ha avuto circa 500 donne all'anno. Adesso 500 donne all'anno significa quasi 2 al giorno. Come è possibile? Cioè, si considerano pure che cosa? I toccamenti, le pugnette? Che si considera? Cioè, si considera pure la toccatina al seno, il capezzolo tirato? Che si considera? Nel dettaglio, non so questo. Cioè, 35.000 donne. Veramente. Poi dove cavolo l'ha preso sto dato? L'aveva preso su internet, qualcuno gliel'ha suggerito. Cioè, 35.000 donne in tutta la sua vita. È uscito un articolo l'altro giorno con tutti i capi di Ah, l'ha letto lì, dici? Ma letto sì, lì. È uscito l'altro giorno da qualche parte. Vabbè, che volevi dire? Non ho capito. Oh, parli? Parenzo, che volevi dire? Ah, questa no, ma che non c'è assolutamente niente questa cosa delle donne. Berlusconi, mi spiace dirlo a me, è stato assolto dei 2 reati che gli avevano contestato. La questione giudiziaria lì è chiusa. Non sapeva della minorenne, della prostituzione minorile, e soprattutto, secondo la procura, non ha concusso una beneamata fama. Dicono che hanno cambiato la legge, vabbè. Sì, vabbè, ok, ho capito, d'accordo, però sì, questo è vero. Dopodiché, però, siccome per me il diritto, come tu mi dici, vale soprattutto... Vabbè, allora? L'altra questione è semplicemente ora puramente politica, cioè questo risultato, questa è l'unica roba interessante, cambierà le sorti di Berlusconi leader? Vabbè. Cioè la soluzione... La domanda della serata, l'inutile banale domanda sarà di questa inutile, serata. Ma è l'unica cosa interessante... Ti faccio sentire un'altra cosa più divertente di uno... Ormai quel che è avvenuto... Vabbè, ma che ce ne frega di Berlusconi leader del centrodestra? No, aspetta, allora, che ti faccio sentire un'altra cosa. Allora, prima di ospitare 3-4 pazzi qua, che sono dietro il vetro, dopo le 8, 3-4 malati di mente, poi vi dico perché. Perché pare che prima di cantare, prima di esibirsi. Io qui ti passerei un po' di imprenditori. No, ma che imprenditori? Ma che me ne frega a me degli imprenditori che c'hai là intorno e che ti pagano oggi? Sei andato lì a fare una marchetta come al solito. Aspetta, sono i tuoi editori. Ma non me ne frega niente a me. Cioè sì, li omaggio così non formalmente, ma poi non me ne fotte nulla. Aspetta un attimo, il signor Di Battista, sai che è Di Battista, no? Cioè Di Battista è il nostro amico dei 5 Stelle. Quello che dice Di Battista mi interessa a me. Sì, ma alza la voce un attimo. Non ti interessa quello che dice Di Battista sulla Germania, mi interessa meno. Però dice che la Germania l'ultima volta che ho tirato l'acqua in gabinetto. No, ma tirala pure, ti prego, tirala un po', fammi sentire. Meno dell'ultima volta vai al cesso un attimo, vai al cesso, ti prego. Vai però al cesso. Se vado, siccome sono al telefono fisso, non lo sento. Ah, no, ma non lo sento. Allora, questo Di Battista è la Germania nazista, dai. Noi, per noi è importante individuare oggi un nemico assieme, e il nemico oggi è il potere centrale, è una sorta proprio di nazismo centrale nord europeo che ci sta distruggendo, cioè stanno proprio creando Europa una sorta di generazione Walmart o generazione 300 euro. Ci siamo dimenticati di qualche frase di Salvini però ieri, Parenzo, oggi tutti riprendono quello che ha detto ieri qui alla Zanzara Salvini su Berlusconi, su Inzaghi, il fatto che invidia i soldi di Balotelli. Io per esempio a Balotelli non invidio manco i soldi, devo dire la verità. Cioè ieri Salvini ha detto io invidio i soldi a Balotelli, io col cazzo che invidio i soldi a Balotelli, a me non me ne frega niente dei soldi a Balotelli. Con quelle capacità. No, ma soprattutto quando vengono usati per uno può usare i soldi come vuole, ma si compra delle cose di una tale oscenità a Balotelli che io non gli invidio proprio alcun euro, ti giuro. Secondo me io lo vedo e dico ma come cazzo spende i soldi questo qua? Può anche io fossi in Balotelli, se avessi i soldi di Balotelli costruirei un campo rom attrezzato, ad esempio. Vabbè, ecco la cazzata della sera, cioè tu spenderesti i soldi di Balotelli per attrezzare un campo rom? Se avessi la redditualità, se avessi il reddito di Balotelli. Basta, non ne posso più. Ah, vi ho beccato, eh. Siete di una ignoranza sesquipedale. Eh certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Dubito che la mia onestà serva qualcosa e non mi va di scoprirlo. Dici che io non sono un granché, quindi silenzio. Com'è bello litigare tra un insulto e una polemica. Giuro. Ma questa canzone mi ricorda qualcosa, com'è bello litigare, io rosico. Cioè, è veramente una canzone da zanzara. Allora, qui ci sono quattro signori davanti a me che hanno dei nomi stranissimi, no, anzi hanno dei nomi normali, ma io non mi ricordo mai i nomi. Allora, si chiamano, dove cavolo ho messo il foglio? Eccolo qua. Si chiamano Matteo Gabbianelli, eccolo qui. Esatto, eccolo ciao. Qui. Si chiamano Donatello Giorgi. Eccomi qui. Cioè, c'ha un anello qui sul naso, parezzo. Un anello sul naso, che ormai è una cosa normale, insomma. La cosa strana è avercelo sul pisello, in realtà, ormai. Chissà che non ce l'ha. Ce l'hai pure là, no? Ogni tanto vedo delle donne, non ce l'hai. Possiamo essere sicuri, sì. Se non svengo, se mi fanno certe cose. Poi un altro che si chiama Luca Amendola. Eccolo. Amendola. Parente poi. Simone Bra. Parente di chi? No, sei diciamo. Parente di Amendola? Parente. Non c'è niente, mica. Non mica. Posso dire. Scusa, Parenzo, si vergogna a dire che è parente di. No, che poi sono Amendola. Di Amendola, l'attore. Ho fatto troppe concessioni. No, non sono parente di Amendola. Che sei cugino di terzo grado. Nemmeno Simone Bravi. Presente. Eccolo qua. Il gruppo musicale si chiama. Allora, si scrive KUTSO, che non è TSO, anche se ogni tanto sarebbero da TSO per quello che fanno, cioè trattamento sanitario obbligatorio, sì. Ma si chiama, io ho capito come si pronuncia, cuzzo o cazzo? Cazzo, si pronuncia, sì. Cazzo, dunque, sì. Cioè, sono ideali per questa trasmissione, Parenzo, capito? Cosa ti perdi tu là da Trieste a fare la marchetta agli imprenditori, capito? No? Nessuna marchetta, perché mi hanno suonato il campanello. Ma io non ho capito, li conosci, tu sai che sono andati a Sanremo, sono arrivati secondi tra i giovani, eccetera, che sono emergenti, vabbè, so che dobbiamo fare anche un po' di... Ho letto, ma non ho sentito le loro non canzoni. Non sai nulla. No, ovviamente. Ho letto che sono arrivati a sul finale. Allora, devi sapere che mi hanno riferito una cosa, io per questo l'ho invitati, poi in realtà non è che noi invitiamo gruppi reato, musicali, così anche se dovremmo iniziare in realtà. Cioè, no, aspetta, una persona mi ha detto, ma guarda che si caricano prima di cantare, prima di esibirsi, eccetera, non ogni sera, credo, perché non qua, ogni volta, sennò sarebbero veramente da TSO, con Emilio Fede. Allora io dico, cioè, con che cosa di Emilio Fede? Con la voce di Emilio Fede normale, sentendo Emilio Fede quando interviene, magari para? No, si caricano con questo. Tu ti ricordi, senti. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Ah, Emilio, scusa, no, ma no, che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no. Ma chi... voi ha retto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo dimmi 400.000 euro. Aspetta, non è finito, io ogni volta che la sento, tra l'altro è stato fatto un rap su questa canzone, non me la chiamo canzone perché è una colonna, stanno ridendo come pazzi, aspetta un attimo. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI, sì. Di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'INPGI? Ma che sono Ma noi che c'entriamo con questo? Io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre, fra cazzo sia la tredicesima stipendio, 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Scusa, allora, è grande, è riferito a lui, perché in realtà noi non abbiamo nessun merito, perché prima ricordavo, prima di entrare in onda con i cazzo, cuzzo, come diavolo si chiamano, che in realtà è stato tutto assolutamente casuale, cioè prima o poi quando saremo vecchi, così è, cioè abbiamo chiamato, non avevamo un cazzo da fare, questa è la realtà. Voi succede di avere un cazzo da fare, certo, no? Sì, no, no, che fate quando non avete un cazzo da fare? Ascoltiamo Emilio Fede. Ascoltate Emilio Fede, no, ma un cazzo da fare, chiamiamo Fede, va, è uscito una cosa sull'Espresso, chissà che ne pensa, eccetera, ed è venuta fuori questa cosa, che no, c'è un apice, c'è un momento clou che voi ricordate bene, che è questo. No, ma noi che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi è, dice l'Espresso. L'Espresso. Che Berlusconi mi ha dato 800 mila euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, querela. Mandate a fare in culo! Ma noi! Siete delle merda! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Ha passato, che ha fatto? Ah, sono cavoli vostri! Questa, peraltro, in contemporanea c'era Arnarella in diretta. Vabbè, siamo al top della zanzara. Quando si inizia così, significa che si è quasi alla fine, sai quando si ricordano le cose, no? La, come fu Sternology durante la trasmissione di Acqua Sterna, qui siamo a Zanzarology. Vabbè, ma insomma, il punto fondamentale, ma è vero questa cosa qua? Rispondimi te, Matteo. Cioè, tu ogni tanto, quando devi, sei depresso, quando devi così, metti Emilio Fede, la sbroccata e un po' ti carichi. Come... Ma guarda, noi siamo nel furgone quando andiamo in giro a suonare. Io sto all'ultimo posto. Ogni tanto, senza dire niente a nessuno, faccio partire lui che sbrocca e fa: quello sono! Ad alto volume. E prima tutti rimangono stupidi, poi ridiamo tutti insieme. Si è generata proprio tutta una cosa che quindi ogni volta che uno di noi chiede quanti qualcosa, una quantità quindi, di qualche cosa. Esatto. Allora, ma quanti sono? Non mi rompere i coglioni! Sempre così, sì. Chi sa, cioè uno, cioè poteva, immagino che Emilio Fede non sia proprio tra i vostri preferiti, come cioè nella vostra gioventù non l'avete preso come modello, insomma, il signore Emilio Fede, o no? Io voglio farti una confessione. Una volta l'ho trovato su Facebook il suo profilo, gli ho scritto, però immaginavo che non fosse lui, invece mi sa che era proprio lui, perché rispondeva così. Sì, ma risponde così, è incredibile. Ma poi risponde sempre. Così. Adesso vi faccio fare un esperimento, facciamo un esperimento molto pericoloso, prima di parlare di quello che state facendo, eccetera. Stasera siete alla Salumeria a Milano. Salumeria della Musica a Milano, sono andato solo una volta in vita mia, alle 21, tu, sbaglio, no? 21 alle 21, poi 21, vediamo. aspetta un attimo. Parla tu, Matteo, parla tu, chi è più vai. Sconosciuto, ecco, dimmi, sconosciuto. Pronto, signor Emilio? Signor Emilio, anche senta. Aspetta. Volevamo farle una domanda. Possibile? Domanda. Insomma, in tutta questa storia l'unico che è rimasto fregato a quanto pare è lei. Conferma? Ma io mi sono, come si dice, incappettato tua madre, ma non l'ho detto a nessuno, capito? Io la vedo tua madre, va a ore, credi di ridurre i prezzi dei bombini. Però è molto più calmo oggi. Emilio! No! Ha messo giù. Io te l'ho detto. No, scusami. Te l'ho detto. Ma scusa, interviene. No! Ho rovinato tutto. Guarda, no, non hai rovinato niente. Beh, era allora un tentativo di intervista. Tu non sei il leader, non si può dire il leader, è una cosa oscena. Sono quello che canta. Sei quello che canta. Insomma, di uno del gruppo dei Cuzzo, cazzo, e cazzo, come si dice? Cazzo. Questa parola. Scritto Cuzzo, che un tentativo di intervista è mio fede. Adesso ci riproviamo. Cioè, allora diglielo, sono dei cazzo. Cioè, tanto non ci crede perché non li conosce. Sono dei cazzo, devi dire, sono il cantante dei cazzo, il cantante dei cazzo. Mi esalto con la sua voce e volevo capire in tutta questa vicenda perché lei è l'unico rimasto fregato. Okay. Cioè, capito? Un tentativo pazzesco di intervista tra i cazzo e intervista di Emilio Fede. Adesso, ragazzi, non mi mette da ridere, ma è così. Di nuovo il numero di Emilio, dai. Vai. Ci hanno salvato. Qui ci mettono in galera stasera. La galera è assicurata. Speriamo che risponda. Lo so, perché adesso è complicato. Ho rovinato tutto. No, ma che rovinato? Va benissimo. Però diglielo, sono il leader. Sì. Tanto non ci crederà perché non sa che cosa sono i cazzo, e anche se lo sapesse non sa che si pronuncia così. Ma poi risponde lui. Stavolta non risponde. È andata stavolta. Ah, peccato. Peccato. Vai fuori dai coglioni che c'ho da fare. Aspetti un attimino soltanto, volevo dirle una cosa. Allora, siccome io sono il cantante dei cazzo e prima di suonare un concerto mi carico sempre con la sua voce, quindi volevo sapere se, perché in tutta questa storia lei è l'unico rimasto fregato. Emilio? Si va? Non ci crede. In fondo a un cinema facciamo betting a volontà. Io mi diverto e anche tu, però lo ammetto, vorrei di più. Elisa, se vuoi. ragazzi, è riuscito al 50% questa cosa, perché in realtà poi quando uno gli dice è stato ad ascoltare secondo me eccetera, sono il cantante dei cazzo, ma uno come può credere quando uno lo chiama sono il cantante, ma come è venuta questa la buona volontà, esatto, ma spiegami una cosa, che cosa significa esattamente cuzzo cazzo, cioè... Allora KUTSO era il modo che io avevo a scuola, al liceo, sì, di scrivere le parolacce sui banchi, quindi c'erano tante altre parole pure oltre a questa e poi me lo sono portato dietro, abbiamo deciso di metterlo come nome anche perché, cioè tu invece di scrivere sui cazzo sui banchi scrivevo così, KUTSO, che per me si leggeva cazzo, poi c'era COOLAW, una malattia, questa è una perversione pure la tua, cioè. 16 anni si è strani, si sa, insomma. Capito Parenzo? Tu che facevi a scuola di strano? Strano? Nulla. Di strano, che facevi? Di strano una volta al ginnasio ho svitato un banco, sai quei banchi? Che hai fatto? Ho svitato un banco. Ah, sì, hai svitato un banco e poi? E c'era, ero in quarto ginnasio, c'era l'appello. Sì. Sì. E a un certo punto io avevo queste mani sul banco, ho detto presente, mi è rimasto in mano tirando su tutto il banco. Vabbè, insomma, niente, niente particolare. Allora, io voglio capire, ma che lo fatevo stuprare la maestra? No, vabbè, qualcosa di più. Per catturare il tuo interesse dovevo cagare nella stella, non ho capito, sulla cattedra. Ma ormai sei a dei livelli, che dovevo fare? Dovevo tirarlo fuori. Voglio sempre, capito? Voglio sempre, sì, voglio sempre stupire, ma infatti ci ho pensato. Stupire cosa? Dovevo dire maestra in greco, dovevo dirgli tieni, guarda cosa ho in mano, cioè questo mi dovevo fare per stupire la professoressa. Io voglio una risposta sincera dai signori cazzo, dai signori cazzo. Dopo Sanremo, dopo adesso c'è il tour, c'è quest'album che è uscito, che sta per uscire, come si chiama l'album? Musica per persone sensibili, è uscito. Musica per persone sensibili, è già uscito, e la prima canzone che abbiamo sentito si chiamava Io Rosico e fa parte di questo album. Dedicata al mio Fede, naturalmente. Dedicato al mio Fede, come ovvio. Allora, ma quanto scopate dopo da quando siete adesso ditemi la verità, chi è fidanzato? Chi è fidanzato? Ma lui forse voleva chiederci, ma le donne che vi scopate quante sono? Quelle che sono! Quelle che sono! Non mi rompete i coglioni! Vabbè, però diciamo la verità, chi è fidanzato? Nessuno. Ma diciamo che noi siamo allergici a questa parola. Come? Ah, sei allergico al fidanzamento? Sì. Pure tu? Pure no, tu. No, io no. Tu sei fidanzato, tu c'hai la faccia più da bravo ragazzo. Non possiamo tu sei la roba da orge, tu sei. Fortunatamente non sapete chi guardava, quindi potrebbe essere chiunque di noi. No, tu nel senso di Donatello, io so cosa gli ho detto, Donatello è roba di sicuramente tu, ma insomma, sei una persona seria. Però insomma, un sacco di, no. Ma guarda, in realtà ci stiamo facendo un culo così, come una non, capace, cioè, dalla... non avete tempo di pensare alla figa, non siete più quei canti una volta, quei gruppi che facevano, no, donne, siamo diventati degli eunuchi. No, esatto. Vabbè, dai. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Ti faccio una sega, tu vuoi un consiglio, eh? Fatela anche tu. Interessante, stimolante. Tatara, titara, titara, tatata, tatata. Che mi consuma da sempre, lentamente. Lo sai che la voce di Fede e le vostre canzoni si intonano bene, cioè si uniscono bene. Abbiamo con noi qui alla Zanzara questa sera i Cazzo, che è un gruppo musicale in ascesa, di ragazzi. Chi è che voi, chi è più grande di voi? Beh, lui chi è? Tu quanti hai? 25, 26, quanti ce ne avete? 35 cazzo, ma te riporti la grande 35 anni, cioè, poi 35 tu? 32 Donatello 32 28 26 tu più piccolo, tu sembri mio nonno, sei molto malissimo per te, 25. Ti mancano poco e perdi i capelli. Già stanno cadendo, è più piccolo di tutti, capito? Parenzo, che dici? Che? Ma Parenzo fa sempre, è in giro, è continuamente in giro. No, non sono in giro, sono, guarda, in una... Allora, facciamo una cosa, dopo riproviamo con Fede, poi adesso abbiamo un'altra interruzione al traffico. Voi la utilizzate la parola froci ogni tanto? I must della Zanzara, la utilizzi oppure è una cosa secondo te assurda utilizzare la parola frocio? Oddio, a me non che no, l'utilizzo, no, non ti capita, cioè tu sei più tranquillo, dici gay, omosessuale, eccetera. No, in realtà no. Ma secondo te il matrimonio è giusto? Si possono sposare secondo te? Dai, io sono anti-matrimonialista. Cioè in generale, in genere, sì, tu invece? No, io uso la parola frocio, ma sono a favore dei matrimoni. Dei matrimoni, come me, uguale a me. E tu invece? No, io piccolo? La uso la parola frocio. La usi tranquillamente con gli amici. Cioè, non è che dici frocio, no. Poi con la C, non con la C, quindi. Sì, frocio, frocio. E sei a favore dei matrimoni gay o no? Assolutamente sì, però solo di quelli gay. Bravo, bravo. Vedi che qui l'Italia vera, quella reale, non quella dei politici. Cioè, Parenzo, non... cioè, voglio... l'Italia vuole questo cazzo di matrimonio gay, no? Ma a me lo dici, io sono d'accordo. Ma perché non smettete di urlare? Datevi una calmata. L'amore è qualcosa che ci piace. L'amore è... Allora, la frase più utilizzata quando vanno in giro a fare il tour, cazzo, non è frocio, eccetera, proprio nello slang così, diciamo, tra giovani ragazzi cantanti che devono passare un sacco di tempo insieme, che si rompono i coglioni, che magari si fanno qualche canna perché vi fate le canne voi. Mi hanno detto che siete drogati pazzeschi, no? No, assolutamente no, abbiamo solo... Però è vero, è proprio vero. Non, cioè, no. Niente, ma niente. Mai preso, cioè, voi sfatate qualsiasi mito, cioè, esatto. Non vi fate le canne insieme? No. Ma da soli. C'è tutta una gamma di... altri vizi che comunque temperiamo, cioè, non mi fate le canne, però mi fate l'eroina, ci rilassa un po', no? Vabbè, me l'avete preso. No, la parola più usata, in realtà quello che usate di più è una parolaccia, ma chi se ne frega, è normale, che è rotti in C, rotti in culo, veramente tu la usi. Sì, no, in effetti tu la usi, mi hai chiesto se usavo spesso quella parola per definire gli omosessuali. Sì. No, però spesso tra di noi amichevolmente ci chiamiamo rotti in culo. Sì, rotti in culo, musica, cioè. Però non è una vostra caratteristica, diciamo, una caratteristica, diciamo, nel linguaggio normale della gente che parla e che noi usiamo spesso. C'è un tizio della Lega Nord, non so se abbiamo adesso recuperato, fra poco recupereremo, che ha utilizzato questa parola contro Gino Paoli e contro Fiorella Pannoia, due vostri colleghi. Signor Bonanno, che ha detto quei due sono due rotti in C, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, io volevo capire una cosa, chi è che vi piace in politica? Cioè, per esempio, Salvini, leader in ascesa in questo momento, non lo sopportate, no, perché siete di Roma? Dai. Tu dici di no, è impossibile. Perché è impossibile? Non ho capito, magari è giovane, gli piace. Vai, parti tu, vai, fratello, sapete, sta sul cazzo. Diciamo, a me piace Di Pietro. Come dice? C'è ancora, esiste ancora. Vabbè, adesso a me divertiva Di Pietro. Cioè, non fare quello che adesso non si... No, deve essere prudente. Cioè, chi hai votato alle ultime elezioni? Si può dire, dai. Mi sa Di Pietro io. Ma che Di Pietro? Poi sono stato assenteista. Che strozzo. Matteo, tu... La domanda è su Salvini o no, su... No, chi hai votato? Chi hai votato? Io ho votato Movimento 5 Stelle, ma con riserva. Come me, con riserva, cioè, mi piaceva il messaggio, cioè riprendiamoci la politica, ovvero ma cominciamo che vuol dire dalle... con riserva, non è che con sì, riserva. Cioè che non mi frega niente di Grillo. Hanno annullato il voto, ha messo la X, ha scritto sotto però con riserva, annullato. Tu invece? Io ho votato il partito dell'amore, Cicciolina. Ma che, vabbè, manco è rinato. Hai votato o non hai votato? Dì. Dai, su. Lo sai che non mi ricordo. Ma che non ti ricordi? Dai, su. Ma lui invece, vedi, lì ha votato 5 Stelle, ma adesso sei un po' deluso, no? Ma voi sapete cantare live, per cortesia, la canzone Servi di Roma Fuori, senza dubbi, neri sentimenti? Neri pensamenti, quelli della Lega. Io mi ricordo una invece che sentì a Radio Radicale, tanti anni fa, che faceva mi su un lumbar, e a lumbar che girimbal, e magna ni rumar. E tu che hai votato invece? Io pure 5 Stelle, però non l'ho annullato. Il voto. Vedi, 5 Stelle, tutti 5 Stelle hanno votato qua. Sì, però tutti delusi, però, diciamo la verità. Tutti un ma po' c'è delusi. Poco da... Dici pure gli altri che... Cioè, no, ma guarda, no, io... Allora, a me piaceva il messaggio di dire andate nei consigli comunali e fate le vostre liste civiche. E siccome non c'erano altre liste civiche a Marino dove sto io, ho votato Movimento 5 Stelle. Però? Ma Grillo in generale, no, deluso? Ma non mi frega niente. Non te ne frega niente. Non è Grillo che mi interessa. Ti interessava riprendersi la politica, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, richiamiamo Fede, dai, l'ultimo tentativo, vai. Richiamiamo Fede, ultimo tentativo, su. Adesso parlo io però, parlo è io, parlo io. No, non è pericoloso, per adesso è stato, diciamo, più o meno della in una semi. Renzi vi piace? No, non vi piace manco per niente, Renzi. No. Ma io preferisco le donne. Vai con Fede, vai, fatemi il numero, forza, ragazzi. Forza. Numero di Fede. Emilio, rispondi, ti prego. Emilio, rispondici, ditelo, rispondici. Vai, rispondici. Ecco. Pronto? Emilio? Sì. Sono Giuseppe, come stai? Chi sei? Cruciani, come stai? Io guarda, con le zanzare come te non parlo più, Cruciani. Tutte le volte chiedi se sono vergine, non ci sono. Ma come vergine? Che c'entra vergine? Come vergine? Come non ci sono vergine? Senti, no, Emilio! Ma sei andato? Che ha fatto? arrabbiato. È arrabbiato? Perché è arrabbiato? Non ho capito. Ma è impazzito. Ma richiamatemelo, che sei impazziti. Cioè, richiamatelo. Si è arrabbiato. È pazzo completamente. È pazzo. È pazzo totale. Cioè, si è arrabbiato con noi. Vabbè, dai, forza. Adesso lo richiamiamo. Ecco, attenzione perché sono in treno. Può saltare la linea. Ciao, Giuseppe. Ah, Emilio, Emilio. Eccomi. Oh, ma che fai? Non mi rispondi? Che sei matto, sei? Ma no, sei matto, sono in treno, salta la linea, figurati se io non ti rispondo a te, sto giocando, no? Oh, appunto, no, no, ti volevo presentare una persona, ma prima l'hai chiamato, l'hai preso a parolacce, cioè... Ma ero io, era il leader. Allora, esiste un gruppo musicale, tu non lo sai perché c'hai 80 e passa anni. Esiste un gruppo musicale che si è presentato a Sanremo. È andato a Sanremo, è arrivato secondo. Come siete arrivati? Sì, sì. Secondi tra i giovani. Si chiamano Cazzo, e che ci vuoi fare? Cioè, ognuno ha le sue perversioni, le sue malattie, le sue fissazioni. Ma veramente è così, si chiamano Cazzo. Vabbè, no, vabbè, ma è una roba pazzesca. Galleria, dai, su. Dai, facciamo l'ultimo tentativo e poi mi mando via, perché dovete andare a cantare. Vai, vai, vai, riprendete, riprendete un attimo, riprendete, riprendete. Cioè, capito? È fatto così, ci cioè, risponde sempre. Ma dici che non è vero che sta in treno? No, è vero, come sì, no? È verissimo, come no? Sta in treno, assolutamente. No, Parenzo, giusto, sta in treno, no? No, ma sicuro. Sì, al 100%, vai, vai, vai con la telefonata. Che hai fatto? Non prende? Non prende, eh? Galleria, non prende. Allora querelliamo Trenitalia. Esatto. Vabbè, ragazzi, grandissimi. Ciao, a presto. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Nel buio in fondo a un cinema facciamo petting a volontà. Ah, petting a volontà è stupendo, in fondo al cinema, eh. In fondo al cinema petting a volontà, vabbè. Marco Lecce, vai, anzi no, chi c'è? Ivano Milano, Ivano, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Volevo parlare di Berlusconi, Cadleron. Vai, vai. Pronto? Vai, dimmi, dimmi, dimmi. Dire innanzitutto che Berlusconi ce l'hanno mandato gli italiani a fare il presidente del Consiglio, sapevano benissimo dei suoi vizi, e i suoi vizi non incidono certo sulla... sulla politica, primo. Secondo, non è detto che quello che è in carica oggi di primo ministro non abbia qualche vizietto. Perché non provano a guardare dal buco della chiave di questo per vedere se ha le stesse cose? Sì, ho capito, certo, ma la differenza si può dire dal punto di vista dei comportamenti, eh? Io, come sui processi, ho già detto la mia. Dal punto di vista dei comportamenti, che nessuno di queste altre persone faceva il presidente del Consiglio, punto e basta. Però alcune cose le abbiamo sapute solamente con le... grazie. Andiamo a guardare nel buco della chiave di questo presidente del Consiglio. È sposato, peraltro. Andiamo, vabbè, ho capito, che vuol dire andiamo a guardare? Se no, guardare nel buco della chiave di un presidente, dei presidenti del Consiglio italiani, guardiamo anche nel buco della chiave di questo comunista, che poi non è tanto comunista, però insomma... Beh, non mi pare molto comunista. Sostenuto dai comunisti. Non appunto. Mi pare molto comunista. Poi? No, appunto, però è sostenuto dai comunisti, quindi... Vabbè, poi? Se ne sono ancora accorti che tizio che è, però va bene. No, poi volevo parlare... Guarda caso, però... Chi è che ce l'ha con Berlusconi, che ancora non accetta il fatto che sia stato assolto, che sia stato comunque... Chi ce l'ha? Ce l'ha quegli sfigati comunisti come Gad Lerner, come la Boccassini. Cioè, guarda caso, sono brutti, storti e fatti male, non ma c'hanno un brutti, euro. Storti, fatti male, non c'hanno un euro, ma che cavolo, ma che significa, dai, su. Sono brutti, storti e fatti male, punto. Poveraccio, vabbè. Poveraccio, vabbè. Gad Lerner, se l'hai mai incontrato, ma neanche se ci la paga una prostituta ci va con lui. È chiaro che ce l'ha con Berlusconi. Parenzo, rispondi tu, dai. Ma cosa vuoi rispondere? È un gran aiuto di insulti. Che magari non è che c'è da rispondere a un Mauro così, che prende il telefono, anziché farsi un aperitivo con un amico e ascoltarsi la radio. Prende per mano la propria moglie e andare al ristorante. Anziché andare a un cinema, a un teatro, ad ascoltarsi della bella musica, dice una gragnuola di stupidaggini. Vabbè, Giuseppe, Milano. Vai, Giuseppe, dimmi. Sì, Cruciani, buonasera. Vai, vai, dimmi. Allora, io volevo dire che alla Biancofiore, che è un popolo che non ha memoria, è un popolo di rincoglioniti. Parenzo lo sa cosa significa. E dunque, la memoria. E dunque che vuol dire? È vero. Perché? Perché Berlusconi dovrebbe chiedere lui scusa agli italiani, non i giudici di Milano. Perché io l'ho paragonato un po' a Schettino, perché mentre la nave italiana stava andando a sbattere, e questo lo dobbiamo ricordare, lui faceva feste e festini in stile romano, mentre Roma bruciava, Nerone suonava, cantava con la cetra e faceva orge. Questo è una cosa inaccettabile, soprattutto per quegli imprenditori che si sono suicidati, chi ha perso il lavoro, chi è stato licenziato. Quindi questa cosa che loro lamentano, che i giudici di Milano devono chiedere scusa agli italiani, è abominevole, non si può sentire. Ho capito, scusami un attimo, tu stai parlando però di questioni che riguardano la politica, no? Cioè erano i comportamenti di Berlusconi sono incompatibili per una serie di motivi con quelli di un presidente del Consiglio, e su questo possiamo anche essere d'accordo. Il punto è che questi comportamenti sono venuti fuori, è vero che Berlusconi ha contribuito a dare una mano esondando, invece di invitarne una ne invitava 55, eccetera eccetera, e questi comportamenti sono venuti fuori per le inchieste dei magistrati, altrimenti non sarebbero venuti fuori con questa grande portata, le intercettazioni, eccetera eccetera. Cioè, fino a poco tempo fa c'era un quotidiano di sinistra, l'Unità, che adesso non è più in edicola, il quale sotto la direzione della signora De Gregorio titolava "Attenti alle bambine", per dire Berlusconi è un pedofilo e bisogna stare attenti alle bambine. Ora è vero che i giornali sono i giornali, che i quotidiani titolano, io sono d'accordo con la titolazione, anche quella più audace, non me ne frega niente, va benissimo, però quelli seriamente titolavano così, non per scherzo, cioè non era un gioco, titolavano "Attenti alle bambine" con la foto di Berlusconi, cioè avevano già decretato che quello era un pedofilo, un pericolo pubblico per le bambine, per le minorenni, chiaro? I love you, I like a virgin. E comportatevi bene. Viene buttato il denaro pubblico, come viene gettato nel cesso il denaro pubblico. Il comune di Roma insieme alla regione Lazio, ma la cosa può essere estesa a tutti i comuni e a tutte le regioni d'Italia, è proprietaria di un sacco di immobili, già questa è una stortura pazzesca, una stortura incredibile, cioè che ancora i comuni e le regioni che sono indebitati fino al collo non si liberano dagli immobili, o affittandoli a peso d'oro oppure vendendoli, invece li gestiscono male nel migliore dei casi. Allora, a Roma è scoppiato uno scandalo, scoperchiato da alcuni giornali, in particolare Il Tempo, poi è seguito anche Il Fatto Quotidiano, eccetera eccetera, e soprattutto dalle Iene. E lo scandalo è presto detto: il comune di Roma affitta, per modo di dire, a circoli del Partito Democratico, e non solo del Partito Democratico, quelle che un tempo erano chiamate sezioni, dei locali a certe cifre. Questi qua non pagano, non solo non pagano, ma se uno vuole ottenere delle informazioni non le può ottenere perché il Comune di Roma non le pubblica. C'è una legge che obbliga a pubblicare online tutti i comuni, tutti gli immobili affittati e ovviamente l'affitto. Tutto questo non avviene. Il caso clamoroso è quello di un circolo del Partito Democratico del centro di Roma, di Via dei Giubbonari, un circolo famoso, lo conosce pure Parenzo sicuramente, Via dei Giubbonari a Roma. Ci sono moltissimi deputati iscritti a quel circolo del Partito Democratico. Questo circolo del PD, allora sentite quello che dice il consigliere, uno di quelli che sta lavorando su questa vicenda, il consigliere della lista Marchigni Onorato, il quale dice che c'era un affitto di 1.200 euro, che già è bassissimo. Questi se lo sono autoridotto e hanno pure un sacco di morosità da pagare. Cosa è successo? È successa una cosa incredibile, che è stata introdotta l'autoriduzione. Sostanzialmente, invece di pagare 1.200 euro al mese, ne pagano 100 euro al mese. E in più c'è una morosità che supera i 130.000 euro, quindi più di 10 annualità. Ma non è che un cittadino, se non riesce a pagare le tasse comunali, può autoridurre. Ma se uno non paga, un cittadino normale non paga, che succede? Succede, Onorato. Pagano un bollettino, invece di pagare 1.200 ne pagano 100, arrivederci. Il tema è un altro, è che il comune sarebbe dovuto andare lì e dirgli: tu paghi meno, io ti mando via. Cioè, se io pago un decimo delle mie tasse e arrivano, mi pignorano casa. Allora, sentite cosa dice il segretario della sezione, questa qua, del circolo del PD di Via dei Giubbonari. Si chiama Urso, è una donna, Urso. Ce lo ammette, ce lo siamo autoridotto. c'è pure chi di sua iniziativa si è addirittura autoridotto il canone della concessione. Ah, questa è stata l'autoriduzione. Nel senso che era una cifra enorme, noi abbiamo detto che paghiamo meno. Basta. Quanto pagavate prima? Non lo so perché non c'ero. E oggi quanto pagate? Adesso di queste non lo so. Di quanto vi siete ridotti? Non lo so, c'è il tesoriere che pubblica i bilanci. Cosa incredibile, incredibile. Questi qua si sono autoridotti da soli, pagando un bollettino di 100 euro, come dice Onorato. Di 100. È come se uno è, c'ha un affitto, sì, però io è troppo, decido che è troppo. Era enorme, dice, enorme, 1200, non so quanti metri quadrati, affittati dal comune a spese nostre, soldi nostri. Non solo, ma ci sono finte associazioni, finte, anzi no, ci sono dei circoli del PD che non pagano, mettendosi, riparandosi dietro finte associazioni. La verità qual è? E qui con la scusa dell'associazionismo, c'è associazionismo e associazionismo, ci sono associazioni valide, ma poi ce ne sono tante altre che in realtà nascondono all'interno sedi del Partito Democratico piuttosto che di SEL, così pagano canoni ridicoli. Ce ne sono tre sedi del Partito Democratico e due di Sinistra e Libertà, bisogna smetterla di fare i furbi. Pazzesco, dai, Walter Vicenza, vai. Tra poco, buonasera. Tra poco buonasera. Andiamo, allora, andiamo sul lotto, andiamo sul lotto con la rubrica della Dandola, Walter, vai. Allora, a proposito di quello che diceva la signora Biancofiore prima, io sì. Ho 52 anni e non sono mai andato a puttane. E sì. Mio fratello ne ha 6 più di me e non è mai andato a puttane. La signora Biancofiore è del 1970, quindi ha qualche anno meno di me. Sì. Io non so in che contesto familiare sia cresciuta, ma sinceramente non riesco a capire di quali persone, di quali uomini stia parlando, visto che secondo lei tutti o quasi tutti vanno a puttane. Forse è una famiglia cosa un po' che ti dica? Secondo sua. Me, secondo me, infatti, è una per difendere Berlusconi non c'è bisogno di dire che tutti gli uomini sono andati a puttane, francamente. Cioè io sai, poi ognuno uno può pensarla esattamente come vuole, si può difendere l'indifendibile. Io poi non sono proprio Berlusconi, ma certo non vado a rompere le palle a nessuno se questo va a puttane, se non ci va sono un bel pacco di affari suoi poi alla fine, visto che se le paga lui. Il problema sarebbe se dovessi pagarle io, visto che non... Ma no, non quello, prendo... quello non crede. Però tu stai dicendo alla Biancofiore non è vero che tutti gli uomini sono andati a puttane o vanno a puttane o comunque per la famosa iniziazione sono andati a puttane. Vabbè, ciao. Apri, c'è la Dandola! Voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. Ciao Cruzas! Dandola! Dandola, dove sei? Dandola, Crucian! Tesoro, dove sei, amore? Dove sei? Amore, dove sei? Quanto mi sei mancato questa settimana? Beh, adesso, la febbre. Non esagerare, dai, amore, quanto mi sono mancato. Cioè, se ma tu che pensi. Noia questa roba della Biancofiore, le puttane. Se tu pensi di essere. Se tu pensi di venire. Se tu pensi di venire a letto con me, ti sbagli. Ma non fa il cazzo, cosa vuole da me? Come sta? Bene, lei come sta? Lei come sta? Dammi. Io l'adoro, l'ho pensata tutta la settimana alle Apparenzo. Apparenzo, hai pensato anche a Forcista? Ecco, che non ma hai pensato è, anche a Parenzo? In porto. Hai pensato anche Apparenzo, l'ho anche sognato di nuovo. Hai sognato? Ho sognato di nuovo sull'altalena con le pudende all'aria, però mamma mia. Mi sono sempre fuggito dal sogno, ecco. Beh, chiaro. Parenzo, cioè, come sta? Bene, Dandola cara, io sono pronto a fare, con lei. Ragazzi, però, ma non capite un cazzo dei tempi della radio, parlate una alla volta, dai, su, dai, io forza. Sono pronto a fare con lei una scommessa, Dandola, secondo me prima della fine dell'anno lei avrà una relazione omosessuale con il signor Cruciani. Questo omosessuale vorrei avere. No, questo non credo. Vabbè, Dandola, dov'è stasera? Vabbè, allora io le ho apparecchiato un tavolo che se lo dimentica. Dimmi, dove sei, Dandola? Sono a casa di Teodora Stefanova. Lei è l'extraterrestre. Sì. Dentro. Teodora Stefanova, chi è? Scusa, spiegaci Teodora bene. Teodora Stefanova è l'unica donna in Italia che peraltro in Lombardia tutte le domeniche in perversa. Vabbè, allora? Le sue previsioni, che c'ha un extraterrestre dentro di lei. Un extraterrestre? Si chiama Nielsen. Sì, ma che fa questo qua? Gli fa le previsioni sulle cose? Fa che... le previsioni, pure a me le fa. E qui c'ho 4-5 amici, tra cui Francesca Cipriani. Poi? Andrea Beghelli. Ciao, Andrea Beghelli è il tuo fidanzato? Fidanzata di Tommaso Trussi. Tardi. Come si chiama lei, scusi? Lucia Vitali. Lucia. Ma che fate tutti insieme là? Che fate tutti insieme là? Stanno a fare le consulenze. Vabbè, allora, spiegaci bene chi è questa Teodora Stefanova. Spiegalo Teodora bene. Teodora Stefanova sì. È stata famosa. No, ma la genealogia qual è? Chi ha come parenti? lei, la sua parente più importante si chiama Pablina, la Pavlova, la Darina Pavlova, la conosce? No, sì, di nome. L'amica di Berlusconi. Ah, vabbè, l'amica di Berlusconi, ho capito. Vabbè, certo, ma quella che fa tutti i film. Fatti fare una previsione. Allora, la prima previsione che vogliamo allora, fare... siamo situazione bulgara. Vabbè, la prima previsione... Scusa, la prima previsione, caro cara Dandola, che devi fare è questa con la signora Stefanova, che adesso tu ti accosti, ti avvicini alla signora Stefanova. Ora mi avvicino alla Cheek to cheek, bravo, esatto. Tieni sempre tu il telefono. Esatto, tieni il telefono. E gli chiedi questo. Allora, Parenzo avrà un terzo figlio? Questa è la previsione. Parenzo avrà un terzo figlio? Aspetti che gliela passo. No, ma la devi, io lo devi chiedere tu. Allora, scusi, Parenzo avrà un terzo figlio, Stefanova? Risposta? Dai, pronto? Ciao Stefanova, ciao cara. Allora... Buonasera, molto molto lieta e piacere di parlare con te. Buonasera, signora Stefanova. Mi dice un attimo se Parenzo avrà un terzo figlio? Ma perché devo dire in tutta Italia, in tutto il mondo, tutte queste cose private delle persone? Beh, perché sono le cose più interessanti. Io direi... Ma secondo lei ce l'avrà detto? Lei indovina sempre. No. Lei, Parenzo, avrà un terzo figlio o no? Lo avrà, dai. Lo avrà? Dai, non facciamo queste cose. Vabbè, allora, Berlusconi avrà un figlio? Berlusconi avrà un figlio dalla Pascale? No, con tutto rispetto, con grande presidente. Io non... anche della sua compagna non posso sapere, non puoi sapere niente, ma ho capito, ma allora che previsioni fai, scusa, che previsioni fai allora? No, previsioni faccio delle persone serie, non faccio così in fronte di tantissime persone, di cose private della gente, prima di tutto con rispetto, con rispetto, e vabbè, privacy. Vabbè, ripassami Dandola, vai, ripassami Dandola, vai, ciao. Sì, ripassami Dandola. Te lo passo, faccio calcio comunque. Ciao, sì, ripassami Dandola. Lei fa calcio. Vabbè, Dandola, stasera mi hai rotto le scatole, ciao, ti saluto, ciao. Come hai rotto le scatole? Mi hai rotto le scatole, ciao. Sergio da Milano, vai Sergio. Un'ora e 25 minuti di attesa, siete dei fenomeni. Va bene, ciao Cruciani. Dimmi. Io volevo soltanto dirti, tutti sti cazzo di extracomunitari sono troppi. Allora, sono veramente troppi, creano danni, fanno danni, impossibile, quando li prendi sono dei fantasmi, non hanno un nome, un cognome, non si sa da dove cazzo arrivano, roba genere. Io lavoro col pubblico, sono tutto il giorno in mezzo alla strada e ne acchiappo tanti. Allora io dico una cosa, tutti quei comunisti e non che li vogliono mi devono fare un favore, devono metterseli a casa e assumersi tutte le responsabilità civili e penali, non portarli in Italia e poi dire adesso li mettiamo sul gobbano a tutti gli italiani, se li devono tenere a casa loro, ok? Questo ma chi dico. Se li deve tenere a casa? Chi? I comunisti, che vogliono tutti questi extracomunitari, che gli fanno pena, se li devono mettere a casa e assumersi tutte le responsabilità civili e penali, quando questi qui combinano un danno, un casino o fanno del male a qualcuno, si va a prendere questo italiano comunista o non, lo si prende per le orecchie e paga lui, no, che questi qui cazzo non hanno una carta d'identità, non hanno un nome, un cognome, sono dei fantasmi, questa gente sono dei fantasmi che girano in mezzo a noi. Ma chi sarebbero questi fantasmi? Spiega, chi sarebbero tutti questi fantasmi? Extracomunitari, zingari, hanno rotti i coglioni. Ho capito Sergio, però che vuol dire hanno rotti i coglioni? Spiega, io stasera parlo io, che tanto quello non parla, è un fantasma stasera, che devi no fare, ma non cosa? Capisco, ma non capisco cosa non parlo io, è inutile che stasera come condurre due ore e mezza da solo, va bene, non cioè, succede anche questo, cosa dice questo qui, cioè voglio dire questa roba degli altri porti a casa, ma che cosa vuol dire? No. Ma lei sa che nel giro di se fosse vero quello che lei sta dicendo, le imprese agricole... Oh, la voce della verità. C'è una grande ascoltatrice della Zanzara che dice paga dimezzata per Parenzo stasera. Adesso bisogna proporre agli ascoltatori questa roba qua, perché è francamente insopportabile. Dai, Marco da Lecce, dai su, dai, ma non è questo che non si sente. Dai su, Marco, vai. Marco Lecce. Ciao Cruciani, ben trovato, sono sempre io neo borbonico. Allora, voi non perdete mai l'occasione per rompere il cazzo al sud. Ieri il signor Parenzo, che dottore non è, ha veramente fatto schifo, no? Perché ma si su dice... che cosa, scusa, su cosa? Sto arrivando al dunque, arrivo velocemente, sui parcheggiatori abusivi di Napoli, i parcheggiatori abusivi. Il signor Parenzo dice, no, loro fanno i parcheggiatori abusivi perché altrimenti andrebbero a rubare. Ma chi cazzo gli dice a Parenzo che i parcheggiatori no, abusivi di Napoli... c'è una economia, ho detto ieri, ma vedo che purtroppo l'intelligenza non è di casa, che esiste sua, un'economia... un'economia della piccola illegalità che chiaramente va combattuta, è vero, ma dopodiché quelli lì che sono affari parcheggiatori abusivi, meno male che sono lì alla luce del sole a raccattarsi €2 piuttosto che andare a rubare. Dopodiché arrestateli tutti questi siccome sono disoccupati, dice non trovano lavoro, allora preferite di vederli nelle vostre case è comunque sbagliato, è comunque sbagliato abusivi. Fare il parcheggiatore abusivo. Dario Milano, Dario, Dario è sbagliato, ma si chiama economia di sopravvivenza. Dario, no? dimmi. Ciao Massimo, io sono un tassista e abito a Milano, ho appena caricato Dandola e la Cipriani che saluto, li ho accompagnati a casa della, sì, della Maga Maghella, della Maga Maghella, la Stefanova. Figurati che la Stefanova non azzecca mai un pronostico di calcio. Mai, ma manca a noi, ce l'ha fatti, ce l'ha fatto due pronostici, uno sul terzo figlio di Parenzo, un altro sul figlio di Pasquale Berlusconi, un cazzo. Ecco, niente. Comunque non farti fare pronostici sulla Lazio perché altrimenti... No, per carità. Ciao Dario, ti abbraccio, ci sentiamo lunedì 18:30, via! Ma veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'Autan, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E comportatevi bene. Radio 24. La passione si sente.